Sura 79esima. Le strappanti violente. Meccana numero 81 di 46 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per gli strappanti violenti. La maggior parte degli esegeti ritiene che i soggetti dell'invocazione espressa nei primi 5 versetti siano gli angeli incaricati di prendere le anime dei moribondi. In base a questa ipotesi sarà possibile formulare la traduzione interpretativa con parole molto diverse da quelle del testo coranico. Lo faremo nelle note per proporre al lettore il significato comunemente accettato dall'esegesi islamica. Per gli angeli che strappano le anime degli empi con violenza. Per i correnti veloci, per gli angeli che delicatamente ritirano le anime dei credenti. Per i nuotanti leggeri, per gli angeli che fluttuano liberamente nello spazio. Per i sopravanzanti con foga, per gli angeli che energicamente precedono le anime dei beati. Per sistemare ogni cosa, per gli angeli che fanno applicare i decreti di Allah. Il giorno in cui risuonerà il risuonante, il corno del giudizio, fa risuonare il primo dei tre squilli fatidici. Si potrebbe anche tradurre il giorno in cui la terra tremerà violentemente. Al quale seguirà il successivo. Seguirà il successivo, il secondo squillo del corno, quello a cui risponderanno i morti, alzandosi dalle loro tombe, oppure e sarà reiterata la scossa. Il quel giorno tremeranno i cuori. E saranno abbassati gli sguardi. Dicono, saremo ricondotti sulla terra? Quando già saremo ossa marcite? Dicono, sarebbe questo un disastroso ritorno. Ci sarà un solo grido. Ed eccoli risvegliati sulla superficie della terra. Non ti giunse, o Muhammad, la storia di Mosè? Quando lo chiamò il suo Signore nella Valle Santa di Towa. Va da Faraone, in vero è divenuto un ribelle. E digli,